Letture di Radio 24. Riuscire a perdere peso significa fare una vita migliore, ma bisogna essere anche pronti ad affrontarne le conseguenze. I vestiti delle boutique finalmente calzano. Prendere i mezzi pubblici non è più un calvario e in generale ci si sente meglio, perché l'apparenza ingannerà anche, ma oggi conta moltissimo. Magro dunque è meglio, o forse no. Non sempre, infatti, perdere peso significa avere una vita migliore. Un nuovo corpo, come il successo, può dare alla testa. È il caso di Melanie Slinger, che dopo aver vinto il concorso Slimming World Slimmer, annata 2002, si è resa conto che la vita dei magri può essere anche più complicata di quella dei grassi. Le tentazioni infatti abbondano e dire di no non è facile, non ci si è abituati. Come dire, una bella linea comporta anche belle responsabilità. Un adulto su quattro in Gran Bretagna è d'altra parte obeso. Circa 300.000 persone ogni settimana prendono parte agli incontri organizzati da Slimming World, una delle principali accademie della dieta del Regno Unito. Visti i numeri, riuscire a dimagrire con la testa non è cosa di poca importanza. Per Melanie, tutto ha avuto inizio con una visita dal dottore. «Rischiavo il diabete», confida Slinger al Guardian, «e mi spaventai a morte». Con i suoi 123 kg incominciò una dieta e i risultati sono sbalorditivi. Melanie perde quasi 64 kg. La sua vita cambia. «Che le persone in carne siano felici è una balla», racconta. «Non stai bene per niente». Solo che non lo dici perché altrimenti qualcuno prima o poi ti domanderà «Perché non fai qualcosa?» «Perché è difficile, ma con l'impegno si ottiene tutto». «Sono diventato uno schianto», continua Melanie. «Quando passavo vicino a un cantiere, gli operai mi fischiavano o mi dicevano «Ciao bella». Melanie va quindi in tilt. «Avevo 36 anni, questo nuovo fisico, e sentivo di aver perso parte della mia vita a causa del peso e volevo rifarmi». Per Melanie lo shopping diventa una droga. Compravo ogni cosa che mi stava. Risultato, Melanie indebita tutta la famiglia. Mio marito, prosegue, mi implorò di rimettere su peso per salvare il nostro matrimonio. Un'idea che non presi in considerazione, ma certo, se avessi saputo che dimagrire avrebbe sconvolto in quel modo la mia vita, non mi sarei mai messa a dieta. Alla fine Melanie cade in depressione e tenta due volte il suicidio. Poi arriva il divorzio, il rapporto difficile con i figli. Infine, la rinascita con un nuovo compagno al suo fianco. Ma è solo dopo un'operazione al ventre per ridurre la pelle in eccesso, dove rischia la vita, che le cose cambiano. Melanie alla fine ritrova l'equilibrio e riprende a vedere i suoi bambini. Eppur essendo consapevole che il suo è un caso limite, resta convinta che gli ex obesi non ricevano adeguato sostegno. Nelle scuole di dieta non ti mettono in guardia sui cambiamenti che la perdita di peso può scatenare, sottolinea Melanie. Partecipi a programmi dove tutto è un sarete magre, sarete bellissime, ma non ti parlano, ad esempio, dell'epidermide in eccesso. Melanie ha speso oltre 15.000 sterline in chirurgia estetica per eliminare il problema della pelle molle. Ora, nonostante le cure per la depressione, il peggio pare essere passato. Ho un partner fantastico e finalmente un buon rapporto con il mio corpo, anche nudo, anche pieno di cicatrici. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Mattia Bernardo Bagnoli «Da cicciona ero più felice», dalla stampa del 23 agosto.